il martedì, altri suoni. Oggi martedì 7 maggio, torniamo in diretta dopo il GR di Radio Popolare con il Breakfast Club, per uno spazio che ci permette di conoscere sonorità, per così dire, non solo particolari ma anche con un immaginario, un concreto allo stesso tempo, di comunicazione ed espressione molto intensa. Intanto ritroviamo il mattiniero Carlo Maver qua in diretta telefonica con noi. Buongiorno e bentornato, Carlo. Buongiorno William. Senti che bella voce squillante che hai. Altro baritonale. Baritonale ma molto chiara, per cui ti sei trasformato in mattiniero per portare in maniera solenne il tuo lavoro, il tuo ultimo lavoro, una poesia in musica con diverse sfaccettature. Carlo Maver, bandoneonista e compositore polistrumentista, che in questo lavoro, come ho detto nell'incipit generico ma molto cucito addosso a Carlo, ha voluto portare una narrazione poetica e un'introspezione autobiografica di comunicazione con il pubblico, con una particolarità diretta, e ho dato delle idee abbastanza attinenti a quello che Solenne vuol comunicare, Carlo. Ma assolutamente sì, intanto ti ringrazio molto William, ringrazio tutta Radio Città Fusico per quello che è e per il supporto, insomma, così, nella comunicazione di un disco, diciamo così, non stavo per dire prodotto, ma non mi piaceva. È più bello disco. Sì, infatti. Di un disco che, insomma, così, sicuramente particolare, perché è praticamente un solo di bandoneone, flauti, con qualche sovrincisione, con la partecipazione di Paolo Fresu in un brano che si chiama La morte non esiste, al quale sono molto affezionato, e del suonatore di Camance, che è un violino persiano, insomma, verticale, Esam in a Low. È un disco che sicuramente non strizza l'occhio ai tempi, ecco, no? Diciamo così. E questo è motivo di merito, secondo me. Anche secondo me, infatti, diciamo così, che io, che ho comunque passati punk, skinhead, eccetera, lo trovo comunque un disco coraggioso e quasi ribelle, anche se ha sonorità ogni tanto anche quasi ecclesiastiche, tipo, se vuoi. Solenni, del resto il titolo riporta in maniera molto esplicita quella che è una sensazione, come ho detto, è come ascoltare poesie in note, è come ascoltare racconti che vanno oltre e altrove, sono racconti che hai vissuto nei tuoi viaggi anche, mi pare, Carlo. Assolutamente sì, molto, insomma, così, della mia, se mi viene concesso, poetica, insomma, così, viene sicuramente da viaggi esteriori e viaggi interiori, diciamo così, che mi hanno portato nel tempo ad avere una mia visione della musica e del mio modo di suonare. Lo proponiamo al nostro pubblico per altri suoni del Breakfast Club su Radio Città Fusico. Hai citato involontariamente l'incipit della playlist con La morte non esiste e la collaborazione di Paolo Fresu all'interno di Solenne. Possiamo partire in questo modo, che sia anche di buon auspicio, tra l'altro, con questo titolo che dà il via all'ascolto per l'ultimo lavoro di Carlo Maver. A tra poco. Thank you. volte sono come fasci di luce, poi in una giornata così invitano all'arrivo di un sole, di un'estate, di un calore che diventa calore umano, quel pulviscolo illuminato dalla luce che filtra nei pomeriggi estivi da una tapparella semiabbassata, ecco la colonna sonora come immagine visiva in una poesia ascoltata e portata con le sonorità. Come ho detto, quello che mi porta visivamente parlando è tutto ciò, e ovviamente questo è un suggerimento emotivo mio che ho esplicitato, ma le visioni sono quanto mai eterogenee e varie per un lavoro come Solenne di Carlo Maver. Le note e il timbro, parliamo anche un po' di quella che è una collaborazione con Paolo Freso in questo brano, che come potete ben ascoltare è preciso, puntuale, per riempire, complementare un suono di note lunghe e allo stesso tempo descritte da me come questi fasci di luce, pulviscolo illuminato dalle note, contrappunto, suono e immagine e visione con Carlo Maver, da un aspetto solenne ma anche molto comunicativo. Ci sei o ti ho addormentato con questa omicidio? No, guarda, io non dico più niente adesso, no. Basta, inibisci qualsiasi... No, io ho fatto la mia recensione, perché l'ho ascoltato durante una situazione visiva tale e mi ha, per così dire, dato una colonna sonora a questi pomeriggi, anche se adesso siamo in prima mattina, ecco. Per quanto riguarda... Scusa, dimmi, ti ho interrotto. No, niente, posso dire una cosa, nel senso che degli ultimi due dischi che ho fatto da solo, che come ti ho detto non hanno... né tempi radiofonici né appunto così sono sicuramente non strizzano l'occhio al commerciale, però una forza che hanno è che se uno si prende, diciamo così, la bega di ascoltare un disco, il no? Piacere. Nel senso così, certo. Il piacere di mettersi lì a ascoltare un disco, sono dischi che ti possono cambiare un po' lo stato d'animo, nel senso così, o perlomeno lo stato, nel senso così, che ti possono portare da un'altra parte. Quindi appunto così, nel senso, anche il discorso di far viaggiare non è oh wow, vedo i cammelli, vedo le cose, eccetera eccetera, però proprio possono cambiare un po' un'emozione interiore, e questa è una cosa che mi riempie di gioia. Ci credo, e noi di piacere nell'ascolto, sì, per quanto riguarda personalmente, più che visioni, come tu giustamente hai detto, per spazi pittoreschi, immagini da cartolina, io sono più per le piccole cose del quotidiano che vengono risaltate, che molte volte noi lasciamo andare, trascuriamo. In momenti come questo invece, secondo me, bisogna renderli solenni per non perderli, perché ogni momento è prezioso. Allora, a proposito di aspetti preziosi, come reperire questo lavoro, Carlo? Allora, il disco è distribuito in tutta Italia, è prodotto da Visage Music, quindi lo potete trovare a Bologna nei negozi al Disco d'Oro, Disco Mag, certo. Li ho portati io personalmente, sono stati i primi ad averlo. Può essere ordinato veramente in tutta Italia, e, se no sul sito di Visage Music. Hai fatto bene a citare sia la produzione e anche le rivendite fisiche, perché recarsi per ascoltare dischi e poi approfondire il momento in condivisione e allo stesso tempo in luoghi atti alla rivendita e alla distribuzione è qualcosa di più che in rete, secondo me. Anche no, guarda, io... in rete sinceramente anche proprio, guarda, proprio il discorso Spotify io ci ho provato, no, nel senso, no, perché comunque poi può anche funzionare per qualcuno, non per me, e più vado avanti più penso a Spotify un po' come la Monsanto, capito, no? Certo, hai fatto, guarda, sei molto incisivo, hai dato una descrizione perfetta. Ieri sono stato al concerto di Angelica, che è stato meraviglioso, un concerto stupendo fra l'altro, e con amici chiacchierando. Io ormai gli ascolti li porto, ma non per motivo di snob o per motivo così di supponenza, però a casa ormai meglio solo in vinile, perché ti tiene lì, non c'è, diciamo, quell'immediatezza di ok, questa parte qui è un po' difficile, quindi vado avanti. No, sì, sì. L'ascolto è portato in maniera completa, l'ascolto è portato con attenzione in questo giardino, dove ovviamente la passeggiata comprende a volte, per esaltare poi momenti emotivi più particolari, anche da aspetti ostici che fanno parte della costruzione stessa del suono. Carlo, io ti ringrazio tantissimo. Se posso dire l'ultima cosa, anche Willy? Più di una, certo. No, guarda, nel senso, una cosa che volevo dire, cioè, ieri stavo, cioè, ultimamente vi ascolto molto, no? Nel senso che sei proprio in radio, siete, cioè, ascolto grazie, radio, grazie. E mi ha veramente colpito, ma tante volte, nel senso, io ho una costruzione di ascolti musicale molto variegata, appunto dal punk oi alla musica medievale, ad Alan Stivell, al jazz, e poi alle mie cose di viaggio, bandoneon, pianoforte, saluti, eccetera. E ascoltando voi, cioè, veramente, cioè, la cosa mi stai sfuggendo. Ho ascoltato una cosa. Sì. Scusa. Veramente è un ascolto, stavi dicendo, perché ogni tanto il segnale andava e veniva, sarà questo no, che ascoltando voi ci ascolto veramente, c'è, cioè, tutti i pezzi della mia vita, ma anche pezzi particolarissimi, Michel Portal in clarinetto solo, capito, no, c'è, cioè, Alan Stivell ieri, gli Angeli Capter, cioè mondi completamente lontanissimi, e da voi li becco tutti, ed è una cosa che veramente mi colpisce. E ci avviciniamo in questo modo, e questo, insomma, ci rende orgogliosi di questo complimento per il lavoro che stiamo facendo insieme a musicisti come Carlo Maver, per dire, oggi protagonista in altri suoni con il lavoro solenne. Carlo, io ti auguro una buonissima giornata, grazie per questa conversazione. Ripetita Juvent è il brano che ci accompagna allo stacco pubblicitario per questa nostra mini playlist. Mi saluta anche Lisa. Ah, ok, infatti dicevo, ma dov'è Lisa? Perché hai detto, ma vediamo un po' com'è la situazione, perché domani mattina sono con... È stata buonissima. È stata bravissima, sei anche vestita da sola. Ah, perfetto, allora siamo avanti. Tra un po', vedi, prende il volo questa ragazza. Come si dice, quei discorsi da persone un po' âgées, no? Ah, tra un po', esatto. Che del resto siamo, almeno sono. Carlo, grazie ancora. Un grande abbraccio. Un caloroso abbraccio a te. E ciao. Buona giornata a tutti. Carlo, ciao, ciao. Maver, solenne. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Un brano da Solenne di Carlo Maver. Concluse Altri Suoni, a breve il Moved Groove tra basket e filosofia, con una stracittadina molto molto sentita, eh? Ne parleremo a breve con ospiti in diretta telefonica, con Pietro Rossi, Rookie of the Year, un po' assonnato e provato dal traffico per quanto riguarda la mattina del martedì, oggi 7 maggio. Ovviamente la palla 2 sarà alzata da Paolo Onofri, e a breve partiremo col nostro parquet sui 103.1.